Allora, io vi ho mandato questa mattina qualche indicazione bibliografica, tre libri più, più consigliati, più centrali e alcuni altri meno direttamente collegati con il nostro argomento, però utili in qualche maniera per approfondire aspetti che sono collegati con il tema denaro, linguaggio, comunicazione, che è un po' il tema del nostro corso. E ripensandoci mentre facevo questa lista di titoli, mi sono reso conto di avervi proposto una cosa un po' azzardata, diciamo così, perché, come ho detto fin dall'inizio, si tratta di un lavoro, più un lavoro di ricerca che di un vero e proprio resoconto di argomenti noti. Ci occupiamo di argomenti largamente ignoti. Allora uno può dire, vabbè, ma scusi, io vengo qua, perdo il mio tempo, ti sto ad ascoltare, poi devo anche fare un esame e mi parli di cose che non si sanno. Qual è risultato, il prodotto, che ci guadagno io, che ci guadagna uno studente che deve. Allora ho cercato di giustificarmi e di rispondere a questa domanda. In primo luogo ci guadagnate forse, insomma, comunque diciamo una delle cose che possono essere utili in un corso come questo. Beh, intanto proprio vi trascino un po' per la collottola dentro, per la collottola vuol dire così, insomma, controforza, lo spiegavo per lei che forse l'espressione essere presi per la collottola, non la conosci, vuole dire insomma essere costretti a fare una cosa, ecco, vi costringo a fare un lavoro di esplorazione di un territorio teorico, bibliografico e anche, diciamo, direttamente politico, che è certamente di grande attualità. Se voi leggete i giornali in questi giorni, non solo i giornali finanziari, ma i giornali politici o qualsiasi organo di informazione, vedete che la questione della crisi finanziaria è al centro e che più o meno tutti ne parlano dicendo qua non ci capisce più niente nessuno. Gli strumenti che abbiamo ereditato dal passato, gli strumenti teorici, gli strumenti analitici, ma anche gli strumenti di intervento politico, finanziario e così via, sono tutti saltati, non servono in questa situazione. E, al punto che i suggerimenti, le indicazioni, le scelte e così via sono fra loro del tutto contrastanti. C'è chi dice una cosa, c'è chi dice l'esatto, esattissimo contrario, e si tratta di persone tutte piuttosto autorevoli. Ecco, per provare quello che sto dicendo, vi mostro, potremmo anche leggerlo, un articolo che esce oggi sul Herald, International Herald Tribune, che è una edizione internazionale del New York Times, che è probabilmente il giornale più autorevole che ci sia al mondo. Per certi aspetti, New York Times, no? E c'è un articolo di un signore che si chiama Paul Krugman. Paul Krugman non è un, diciamo, incompetente, è il premio Nobel dell'economia dell'anno 2010, premio Nobel dell'economia, bene? Ed gli è stato dato il premio Nobel perché si sapeva che Krugman aveva fatto una cosa scientificamente molto importante, era stato l'unico, non l'unico, ma insomma il più autorevole economista che aveva saputo prevedere la crisi del 2008, l'aveva descritta anticipatamente e quindi in considerazione di questa sua previsione gli venne nel 2010 attribuito il premio Nobel. Quindi insomma dobbiamo ascoltarlo, no? Paul Krugman. Bene, Paul Krugman oggi pubblica sul Herald Tribune un articolo intitolato Europe's Economic Suicide, il suicidio economico d'Europa, in cui dice, inizia parlando dei suicidi, ma in Europa ci sono molti suicidi di lavoratori, imprenditori e così via, che sono provocati dalla crisi economica. Ma, dice Krugman, io penso che qua non c'è un suicidio di questo o di quello, qua c'è un suicidio dell'Europa intera. Le scelte che l'Unione Europea sta facendo in questo momento sono scelte evidentemente suicide. E poi lo spiega. Qualche mese fa dice: io speravo, avevo qualche speranza a proposito dell'Europa. Possiamo ricordarci che alla fine dell'anno scorso, quando l'Europa era sul limite di un financial meltdown, di uno squagliamento, proprio di una dissoluzione economica, la Banca Centrale Europea tentò di salvare la situazione offrendo alle banche delle linee di credito aperte, cioè dando un sacco di soldi alle banche, diciamo così, nella speranza che le banche indirettamente facessero finire il panico dando soldi alle imprese, agli stati, alla società, insomma. Il problema allora era se i leader europei avrebbero aiutato le banche a dare soldi all'economia reale, ma i dirigenti politici europei non lo hanno fatto per niente, anzi hanno sempre di più aumentato le loro failed policies, le loro politiche fallimentari di austerità. Pensate a quello che sta succedendo in Spagna, che al momento è l'epicentro della crisi. Non credete a quelli che parlano di recessione. La Spagna non è in recessione, la Spagna è in full on depression, è in una condizione di depressione profonda. La recessione è un regresso economico temporaneo. La depressione è uno stato proprio di lungo periodo da cui difficilmente ci si riprende, con una disoccupazione del 23,6%, che è come quella dell'America degli anni 30, e con una disoccupazione giovanile che sta sopra il 50%. Questo non può continuare. E quindi non ha importanza chiedersi come la Spagna è arrivata a questo punto, ma capire come se ne può venire fuori. La Spagna non è stata, non, la causa della crisi spagnola, lui dice, non è profligacy, non è la spendaccioneria. La lo sperpero fiscale, la liberalità fiscale. E il problema della Spagna è che c'è stato un enorme housing bubble, una bolla delle costruzioni, dell'immobiliare, cioè enormi capitali sono stati investiti per costruire case, case, case, case che nessuno comprava e quindi alla fine il mercato adesso è crollato. E lui aggiunge: Bubble, una bolla che per larga parte è stata resa possibile da enormi prestiti che venivano dalle banche tedesche. Quindi i tedeschi finanziavano una bolla, finanziavano la costruzione di case inutili e le banche tedesche. E gli spagnoli prendevano i soldi, i costruttori spagnoli prendevano i soldi, investivano nelle case che nessuno comprava e adesso le case nessuno le compra, anzi, molti sono costretti a abbandonare le loro case e così via. E però le banche tedesche vogliono indietro i loro soldi che sono stati prestati per fare una cosa che tutti sapevano che era inutile. Io sono 10 anni che sento parlare del fatto che in Spagna c'è un mercato immobiliare completamente artificiale, quindi tutti lo sapevano che sarebbe finito così. I problemi fiscali della Spagna, dunque, sono una conseguenza della sua crisi, non la causa. E allora lui dice, ma perché? E perché allora l'Europa adesso punta tutto sulle politiche fiscali? Vuole stringere ancora di più? In questo modo si va al suicidio, perché bisognerebbe fare il contrario, bisognerebbe non dare soldi alle banche, ma dare soldi alle imprese, dare soldi al sistema pubblico, alla scuola, alla ricerca, e così via, perché questo farebbe rinascere, la domanda. E nonostante questo, the prescription, la ricetta che viene da Berlino e da Francoforte, come voi sapete, è ancora più austerità fiscale. Questo è not to mince word, per non usare parole leggere, semplicemente pazzesco, insane, folle. L'Europa, ha avuto parecchi anni di esperienza con i programmi di austerità e il risultato è esattamente quello che qualsiasi studente di storia potrebbe raccontarvi. E questi programmi hanno depresso le economie ancora di più. E dal momento che gli investitori guardano allo stato dell'economia di una nazione, quando si chiedono se quella nazione potrà pagare il suo debito, i programmi di austerità non hanno funzionato nemmeno per ridurre i costi del prestito. Siccome chi investe si chiede, ma qui come andrà a finire? Dicono c'è l'austerità. Eh sì, ma l'austerità farà peggiorare l'economia, come è successo già in Grecia. E allora è chiaro che uno che dovrebbe investire i suoi soldi, in quella banca e in quel paese non lo fa. Poi stacco, pronto? Ci possiamo sentire più tardi, eh? Sì. Diciamo all'1:15. Bene? Ciao, scusa, grazie. Ecco. E quindi non solo queste politiche di austerità provocano recessione, depressione. In Grecia, dopo un anno di politiche dell'austerità, il prodotto è caduto del 7,2%. Ma quando c'è la recessione, non è da dire, allora, beh, vabbè, c'è la recessione, però paghiamo il debito. No, perché se sei in recessione hai bisogno di soldi per mangiare. E quindi il debito, invece di calare, aumenta. E quindi è doppiamente pericoloso quello che si sta verificando. Qual è l'alternativa? Bene, negli anni 30, un'era, un'epoca che l'Europa attuale sta sempre più riproducendo, la condizione essenziale per venire fuori no, per recovery, per riprendersi, fu venire fuori dal gold standard, cioè uscire dal sistema di scambi economici internazionali. Cioè, diciamo, lo spiega subito, la cosa analoga oggi in Europa sarebbe venire fuori dall'euro e restaurare le monete nazionali. Proposta impressionante, perché fino a qualche giorno fa nessuno osava fare una proposta di questo genere. Voi potreste dire che questo è inconcepibile, E in effetti sarebbe una cosa disruptive che provocherebbe un disastro a livello politico oltre che a livello economico, ma continuare con la direzione presente, imporre austerità ancora più pesanti su paesi che già stanno soffrendo la depressione, questo è ciò che è veramente inconcepibile. Quindi, se i dirigenti europei davvero volessero salvare l'euro, dovrebbero cercare una direzione alternativa. E la forma di questa è chiara: il continente ha bisogno di politiche economiche espansive, non austerità, ma soldi per la società, non soldi per le banche. Nella forma di una volontà di accettare anche una certa inflazione, perché come voi sapete tutti gli economisti dicono, particolarmente la Banca Centrale Europea dice che l'inflazione è il pericolo maggiore. E Krugman dice no, non è vero, l'inflazione non è un grande pericolo. In primo luogo perché adesso l'inflazione non ce n'è per niente. E quindi averne un po' si potrebbe accettare. Inoltre, perché l'inflazione non è il pericolo principale. Cos'è l'inflazione? Si chiama inflazione una situazione in cui i prezzi dei beni aumentano costantemente, ovvero il denaro si svaluta. Se tu hai 1.000 euro al mese e la benzina costa il 10% di più e tutti i beni costano il 10% di più, il mese prossimo tu non hai più 1.000 euro, hai 1.000 euro meno il 10%. Questa è l'inflazione. È pericolosa l'inflazione, chiaro, ma più pericolosa ancora è la deflazione. Cos'è la deflazione? È una cosa in cui nessuno compra più niente, per cui i prezzi calano invece che aumentare. Loro dice, ah bene, così io mi vado a comprare una nuova maglietta. No, perché non hai soldi per comprartela. Perché? Perché in una situazione di deflazione ti licenziano, quindi tu non hai il 10% in meno del tuo salario, ma non hai più il tuo salario per niente. Ecco, quindi le politiche economiche sono sempre in questa situazione. Vogliamo correre il rischio che i prezzi aumentano e il denaro si svaluta, o vogliamo correre il rischio che i prezzi diminuiscono, ma il denaro non c'è più, scompare dalle tasche della maggioranza. Ecco, fra queste due politiche, i gruppi dirigenti hanno sempre scelto di rifiutare comunque la inflazione. Perché? A chi fa paura l'inflazione? Basta pensarci un attimo. L'inflazione vuol dire che il denaro vale di meno. Chi ha paura dell'inflazione? Chi ha molto denaro. È ovvio. Se io prendo 1.000 euro al mese, l'inflazione mi farà un po' di paura, ma in fondo avrò solo il 5% in meno su 1.000 euro. Però in compenso almeno salvo il mio posto di lavoro e nel futuro posso riprendermi. Se io ho 100 milioni di euro, a quel punto per me l'inflazione è un vero problema, perché il 10% in meno vorrebbe dire una somma enorme che mi viene sottratta. Ecco perché l'inflazione, tutti ci dicono ah, il pericolo è l'inflazione, e tutti quelli che fanno i giornali, che mettono i soldi nei giornali, ma la verità è che in condizioni come quella presente, molti economisti come Krugman dicono, ma correte il rischio dell'inflazione. Qualcuno dice, questo lo avrete sentito in giro molte volte, ah, ma attenzione, la Germania degli anni 20 entrò in una inflazione spaventosa, una inflazione così grande che il marco non valeva più niente, per comprare un pacchetto di sigarette ci voleva 1 miliardo di marchi. E a un certo punto, e questo portò al nazismo. E questa tesi largamente diffusa è solo parzialmente vera, anzi, in realtà non è vera affatto. Cioè, sì, è vero, si è arrivati a quell'inflazione pazzesca che poi ha portato al nazismo, ma cosa era successo prima? Non ci raccontano mai la cosa che era successa prima. E allora bisogna risalire per capire il disastro, il collasso della Germania negli anni 20, bisogna risalire alla Prima Guerra Mondiale e soprattutto al congresso di Versailles, che forse vi dice qualcosa. Cioè la Prima Guerra Mondiale è una guerra in cui per la prima volta l'Europa entra in un conflitto generalizzato e trascina con sé anche altre parti del mondo, non molte, perché in realtà la Prima Guerra Mondiale in realtà è una guerra europea, con il coinvolgimento degli Stati Uniti d'America, alla fine, di alcune aree del mondo arabo, poco più del Medio Oriente. Bene, è una guerra tra la Francia e la Germania, al centro, nucleo della Prima Guerra Mondiale, è una guerra tra Francia e Germania, guerra che si trascina per un secolo e mezzo. La Germania e la Francia si sono fatte la guerra dal 1813, da quando Napoleone tentò di prendersi la Germania e a Lipsia venne fermato con una battaglia che costò 100.000 morti ai francesi e ai tedeschi. 1813, poi c'è una nuova guerra franco-tedesca nel 1870, la guerra cosiddetta guerra franco-prussiana, che viene, che è una guerra essenzialmente centrata sull'Alsazia e la Lorena e che si conclude con una disfatta francese. E dopo il 1870 la situazione rimane conflittuale, naturalmente, e nel 1914 nuovamente lo scontro tra queste due grandi potenze europee, le due più importanti potenze dell'Europa continentale, la Francia e la Germania. Una guerra, come sapete, motivata da cose molto profonde. Prima di tutto è un conflitto territoriale. La Francia e la Germania sono due grandi paesi senza un vero confine, con un confine molto fragile. I territori di confine, l'Alsazia, la Lorena, la Ruhr, che sono territori molto ricchi, sono come? Soprattutto la Ruhr. Certo. E sono territori parzialmente francesi e parzialmente tedeschi, dove si parlano le due lingue, così, e quindi è un motivo, ma ci sono motivi anche più profondi. La Francia è il paese politicamente progressista, il paese del diritto, dell'illuminismo, mentre la Germania ha una tendenza, legata alla sua cultura e alla sua storia, piuttosto conservativa, reazionaria, militarista. Insomma, per tanti motivi, Francia e Germania ritornano in guerra nel 1914. Poi ritorneranno in guerra anche nel 1939, con la Seconda Guerra Mondiale. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, come sapete, il primo obiettivo che si propongono le grandi potenze del mondo è quello di farla finita con questo conflitto franco-tedesco, che è diventato la causa prima di guerre europee, poi addirittura di guerre mondiali. Quindi Francia e Germania debbono fare la pace. E come si fa? Si crea l'Europa Unita, l'Unione Europea nasce da questo problema, eh? Cioè l'Europa Unita prima di tutto è l'alleanza stabile, economica e poi anche politica, tra la Francia e la Germania. Se vogliamo capire la storia dell'Europa negli ultimi due secoli, dobbiamo guardare a questo, a Berlino e a Parigi. È lì che si gioca il destino dell'Europa moderna. Ma torniamo alla Prima Guerra Mondiale. La guerra è terribile, sanguinosa, soprattutto per i tedeschi e i francesi. I tedeschi perdono 1.800.000 uomini, i francesi perdono 700.000 uomini nel corso della Prima Guerra Mondiale. Alla fine, con l'intervento, la storia della Prima Guerra Mondiale complicata, appassionante, tragica, ma alla fine gli americani si decidono a entrare in guerra E l'intervento americano nel 1918 è decisivo, perché a quel punto arrivano 300.000 uomini ben armati, freschi, e la Germania è sconfitta. Naturalmente gli americani intervengono a favore dei francesi e degli inglesi, e la Germania deve arrendersi nel novembre del 1918. Dopo la resa, il presidente americano, che si chiama Woodrow Wilson, dopo la fine della guerra, il presidente americano propone un incontro che deve affrontare tutti i problemi del mondo. Tutti! Gli americani, soprattutto Wilson, avevano delle idee un po', diciamo, universali, forse anche esagerate, ma insomma è il primo tentativo di creare un organismo politico mondiale che in effetti si chiamerà Società delle Nazioni, che è un poco l'anticipazione di quello che oggi chiamiamo United Nations Organization, l'ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, o UNO in inglese. Ci si vede dove? Ci si vede nel paese che ha vinto, la Francia, essenzialmente. A Versailles, nella grande reggia, voi sapete che i re francesi fino alla rivoluzione, fino al 1789, abitavano in questa grande reggia di Versailles, una reggia che ha mi ricordo, ma non posso crederci, a 2000 stanze, mi pare, e può tenere fino a 20.000 persone ospitare, e quindi è un palazzo enorme. E Wilson chiama tutti gli stati nazionali del mondo e anche tutte le organizzazioni politiche che rappresentano un progetto di Stato nazionale a partecipare a questo incontro che chiamiamo Congresso di Versailles. Il Congresso di Versailles è uno degli eventi più straordinari nell'intera storia umana. Qualcuno l'ha raccontato, c'è un libro di una americana che si chiama Margaret Macmillan, intitolato Parigi 1919, che è un libro appassionante, e vi racconta come si svolge, quali sono i vari momenti. Pensate, per dire, che a questo congresso partecipa anche un signore che si chiama Ho Chi Minh, forse non vi dice molto questo nome. 50 anni dopo Ho Chi Minh sarà il leader del Vietnam, che fa la guerra contro gli americani, ed è il fondatore del Vietnam indipendente. 50 anni dopo viene invitato Chaim Weizmann, che è un intellettuale ebreo, rappresentante di un movimento, il movimento sionista, che vuole una patria per gli ebrei. Israele, non esisteva Israele, non esisteva neanche, c'era stata una proposta di formazione dello Stato nazionale, ma insomma vedete che Wilson vuole creare un luogo in cui tutte le forze politiche a carattere nazionale, oltre agli stati, si incontrano in un medesimo luogo. E c'è naturalmente una intenzione fortemente utopica in questa azione di Wilson. Wilson parla di autodeterminazione dei popoli, che è una espressione molto bella, però anche molto pericolosa, perché apre una questione che diventerà una bomba nei decenni successivi. Chi è un popolo? Mica facile da definirsi, perché a quel punto ci sono stati nazionali che esplodono. Perché prendiamo l'Jugoslavia, il popolo croato, il popolo serbo e il popolo bosniaco vogliono fare uno Stato nazionale autodeterminandosi. Prima c'è uno Stato nazionale, poi questo esplode. E dunque, oppure gli ebrei e i palestinesi, siamo due popoli, vogliamo uno Stato nazionale. Quindi il principio affermato da Wilson, che è un principio ben intenzionato, ebbe anche un effetto, diciamo, contraddittorio nella storia. Ma insomma, non voglio raccontare la storia del congresso di Versailles, anche se sarebbe bello, voglio soffermarmi solo su un particolare. La politica nei confronti della Germania. La Germania è considerata responsabile della prima guerra e ha perso, quindi bisogna distruggerla. Questo è il principio della Francia, dei francesi. Comprensibile, hanno subito un'aggressione, eccetera, eccetera, ma molto pericoloso perché distruggere un popolo, peraltro il popolo tedesco, che sul piano scientifico e industriale è certamente il popolo più forte in quel momento, cioè l'Ottocento, la fine dell'Ottocento in Germania è stato un periodo di intensissimo sviluppo scientifico, tecnico e industriale. Distruggere un paese in piena crescita, con quelle caratteristiche, eccetera, è un'impresa molto, ma molto pericolosa, come infatti si vedrà. 10 anni dopo nasce il partito nazista, 20 anni dopo il partito nazista va al potere, 25 anni dopo si va alla seconda guerra mondiale. Insomma, come si distrugge lo Stato tedesco? Uno, si impone la rinuncia all'armamento di gran parte delle strutture tedesche. Le frontiere devono essere disarmate, l'aviazione deve essere disarmata, la marina deve essere disarmata. È uno. Due, si impone la consegna di tutti gli apparati industriali che avevano lavorato per i militari, quindi gran parte dell'industria pesante tedesca viene sequestrata dagli inglesi e dai francesi. Tre, si impone il pagamento di debiti di guerra che sono fantastici, inimmaginabili. Scusa? Ho finito di pagarli una decina di anni fa. Sì, no, infatti, perché poi a un certo punto Hitler interrompe, ma poi riprende. E ecco, questa terza misura è una misura rivolta a impedire che la Germania si possa riprendere, perché ogni anno deve pagare il debito. Ora, voi capite che questa decisione, questa imposizione è un'imposizione che necessariamente è destinata a produrre degli effetti tragici, come poi si è visto. Non che la cosa fosse ignota, molti ci avevano pensato. Per esempio, c'è un inglese che si chiama John Maynard Keynes, economista molto importante che forse voi conoscete perché Keynes è la persona che negli anni 30, molti anni dopo, proporrà una politica economica di investimenti per il rilancio dell'economia americana. Ed è noto perché poi dal suo nome nasce quel fenomeno, quella tendenza economica che si chiama keynesismo, una politica di spesa pubblica, una politica, diciamo, socialdemocratica di spesa pubblica. E Keynes, che nel 1919 era già un importante rappresentante politico inglese, scrisse un libro per dire non fatelo assolutamente, non mettete quella imposizione sulla Germania, perché il risultato sarà una catastrofe nel lungo periodo. Era possibile immaginarlo. Keynes, lungimirante, intelligente, lo prevede. E invece i francesi imposero a tutti i costi questa politica. Il risultato quale fu? Fu una umiliazione politica profonda per il popolo tedesco, e l'umiliazione di un popolo non è mai una buona cosa, perché prima o poi quello si vendica, soprattutto se ha i mezzi per farlo. Due, fu un impoverimento dell'economia tedesca, un indebitamento dell'economia tedesca che porta 10 anni dopo all'inflazione catastrofica degli anni 20. Ma allora l'inflazione non è la causa del nazismo, come si dice abitualmente. No, la causa del nazismo, la causa originaria del nazismo è il debito, è l'imposizione del debito. Attenzione, attenzione, perché quello che oggi stiamo affrontando in Europa è un problema simile. In Grecia, cosa sta succedendo? Sta succedendo che si dice, ah, voi greci avete speso troppo, ha speso troppo, certo, hanno comprato armi tedesche e francesi che non gli servono a niente, però gran parte del loro reddito è stato investito nel comprare armi, i soldi delle banche tedesche arrivavano in Grecia e le banche greche investivano questi soldi per comprare delle armi tedesche, questa è la gran parte del debito greco, ma vabbè. Avete speso i soldi chissà come, lo sapete benissimo come li abbiamo spesi, li abbiamo dati a voi, voi ce li davate con la mano destra e noi ve li restituivamo con la mano sinistra, comunque siete degli spendaccioni. E allora cosa facciamo? Dovete pagare il debito, tutto, fino alla fine, anche se questo vuol dire che morite di fame, come sta accadendo in questo momento. E, cosa succede dopo? Cosa succederà in Grecia? Anzi, cosa sta già succedendo adesso? Si stanno formando delle squadre naziste che, per esempio, vanno nei quartieri della periferia ateniese a picchiare i pakistani. Bisogna avere qualcuno con cui prendersela. Hitler se la prendeva con gli ebrei, i nazisti greci se la prendono con i pakistani. Alle prossime elezioni greche cosa succederà? Per esempio, i partiti cosiddetti democratici perderanno completamente le elezioni, questo già si sa, e vinceranno le destre fasciste e la sinistra, speriamo che quella riesca a crescere di molto, ma il risultato è che la democrazia greca è andata definitivamente a quel paese. Cosa succederà dopo è facile immaginarselo. Cosa succederà in Spagna come effetto della crisi presente? Cosa succederà in Italia per effetto di questa crisi? Cioè il debito, l'arma del debito è un'arma pericolosa, come leggevamo su quell'articolo del Manifesto l'altro giorno. Ci sono alcune lingue, per esempio il tedesco, in cui la parola debito vuole dire colpa. Ecco, per i tedeschi negli anni 20 pagare il debito voleva dire pagare la colpa, ma attribuire a un popolo una identità basata sulla colpa, beh, voi lo capite benissimo, vuol dire preparare quel popolo ad una reazione aggressiva di tipo violento, di tipo nazionalista. Il nazismo nasce per effetto della crisi economica prodotta dal debito e per reazione orgogliosa, aggressiva, violenta, nazionalista, contro il senso di colpa. Chi usa il senso di colpa provoca dei danni, sempre, perché il vostro interlocutore, se voi continuate a ripetere è colpa tua, fin quando voi dominate sarà costretto a chinare la testa, ma appena voltate l'angolo farà tutto il possibile per farvela pagare, proprio perché mettete in moto non solamente, diciamo, la sua condizione materiale, ma anche un senso morale di riaffermazione di sé. Ecco, vabbè, questa parentesi sul congresso di Versailles e le sue conseguenze ci può aiutare anche a capire quello che qui sta dicendo Paul Krugman quando dice attenzione che con l'austerità e con il debito, con l'insistenza sul debito, l'Europa non verrà fuori dalla sua crisi, anzi finirà per sprofondarvi sempre di più e finirà con il suicidio. Però io avevo cominciato dicendo che mi sono reso conto del fatto che questo corso è un corso un po' avventuroso. Perché? Perché ci occupiamo di cose che sono molto al limite delle nostre conoscenze, anzi sono un po' oltre quel limite. Allora mi chiedevo, ma io perché ho fatto questa cosa un po' azzardata di costringere questi poveri ragazzi a seguirmi nelle mie lucubrazioni? Cosa ci guadagnano loro? E per mettermi in pace la coscienza e non tormentarmi con i sensi di colpa, che come sappiamo sono negativi, mi sono risposto: uno, ci guadagneranno il fatto che vedono come si fa, quando si ricerca non si segue una linea prestabilita, si va in molte direzioni, si afferra questo argomento, quell'altro argomento e si cerca di dare senso ad una ipotesi, magari smentirla, magari trovarne un'altra e così via. Quindi questa prima giustificazione. Diciamo, state partecipando ad una impresa di tipo esplorativo, sperimentale. Due, io vorrei vedere anche questo corso più che come una cosa unitaria, come un insieme di quadretti, cioè come ciascun pezzo dovrebbe avere una specie di autonomia a parte, diciamo così. Adesso abbiamo parlato del congresso di Versailles, non vi è inutile conoscere il congresso di Versailles, argomento storico, politico. Ieri abbiamo parlato del protestantesimo e della riforma protestante, della controriforma. Ieri mattina abbiamo parlato dei libri di Deleuze e Guattari. Ora, sono dei pezzi di un corso scarsamente coerente. Perché quando si fa ricerca, la coerenza viene dopo. Si è alla ricerca della coerenza. Però spero che ciascuno di questi pezzi del ragionamento abbia una sua utilità, che ciascuno di voi, magari uno dice, ma del congresso di Versailles non me ne frega niente, però mi interessava quella cosa su Deleuze e Guattari, quindi qualcosa riusciate a ricavarne dal punto di vista conoscitivo, non solo dal punto di vista della scoperta e della ricerca, ma anche di imparare alcune cose che possono esservi utili. Tre, ultimo. Io vorrei però anche che uno potesse, diciamo così, ricostruire il senso di questo percorso. E quindi mi riprometto, mi è venuto in mente che ad un certo punto prossimo, cioè diciamo fra due lezioni forse, dichiariamo il corso concluso e lo ricominciamo da capo, cioè decidiamo ad un certo punto che il lavoro di ricerca, che non è certamente esaurito, è giunto ad un punto relativamente stabile. Cioè abbiamo raccolto elementi sufficienti per riconsiderare la questione del danaro come forma di comunicazione, come forma di linguaggio, e dunque cerchiamo di ricominciare, di ricomporre l'intero quadro. Per cui a un certo punto, io nel frattempo cerco anche di mandarvi un po' di materiali e magari alcune cose le possiamo anche scrivere insieme, nel senso che proprio ci mettiamo lì e cerchiamo di la prima cosa che potremmo fare insieme a un certo punto è rifare, anzi fare senz'altro, perché non c'è, una scaletta di questo corso. Cioè io generalmente quando inizio un corso, secondo giorno mando una scaletta degli argomenti che tratteremo. Questa volta non l'ho fatto, perché gli argomenti che tratteremo non sono molto chiari anche a me, vengono fuori un poco volta per volta. Però ad un certo punto, prossimamente, ripeto, noi siamo adesso lontani dalla metà, quando raggiungiamo la metà delle ore o l'abbiamo superata di poco, quindi fra 2 o 3 lezioni, dichiariamo conclusa la fase istruttoria e ricominciamo da capo con una scaletta che abbiamo elaborato comunemente, cioè che ci mettiamo lì ed elaboriamo un piano del lavoro da fare che però tiene conto, mette a frutto le cose che abbiamo già fatto. Ecco, questo è un po', diciamo, il punto a cui sono arrivato. Io in verità ho già cominciato a riflettere su una scaletta possibile, ma è troppo presto, perché mi rendo conto del fatto che molti argomenti sono ancora da trattare. Di cosa abbiamo parlato finora? Faccio il punto. Nella prima lezione abbiamo parlato di cos'è il danaro in quanto forma linguistica. Ho citato Robert Sordello che dice il denaro e il linguaggio hanno una cosa in comune, sono niente e muovono tutto. E ho cercato di capire che significa questa frase. E poi abbiamo parlato nella prima lezione di neoliberismo. Cosa è il neoliberismo? Cosa sono le politiche che dagli anni 80 in poi governano l'economia mondiale? Più o meno questo è stato il primo argomento trattato. Poi ci siamo chiesti anche che cosa significa, cioè quali sono i campi in cui si può fare un discorso sul denaro come linguaggio. E questi campi, abbiamo detto, sarebbero la linguistica, ovviamente, la semiotica e la comunicologia. La linguistica, il campo in cui si definisce il linguaggio, diciamo, come competenza, come capacità cognitiva umana. La semiotica è una scienza, un campo di ricerca che tenta di definire il segno nelle sue varie dimensioni e funzioni, e la comunicologia è il campo del quale dovremmo più direttamente occuparci qui, e cioè un'analisi della storia dei media. Sul piano comunicologico noi finora abbiamo detto molto poco, e invece bisognerà chiedersi che rapporto c'è tra la finanza e la storia dei media, e lì è intuitivo, tutti lo capiscono bene, senza internet non ci sarebbe stato il processo acceleratissimo di finanziarizzazione dell'economia e di globalizzazione dell'economia finanziaria. E 30 anni fa, 40 anni fa, se volevate comprare delle azioni, dovevate andare alla borsa. Oggi accendete il vostro computer e lo fate direttamente da casa vostra. 40 anni fa, per sapere cosa succedeva a Hong Kong, bisognava aspettare le notizie di domani e poi, bisognava forse aspettare una settimana per avere un'analisi. Oggi avete online dei siti che vi danno in tempo reale le informazioni su quello che succede a Hong Kong. Quindi la rete ha creato un campo estremamente favorevole alla finanziarizzazione ed alla globalizzazione sia finanziaria che industriale, produttiva e così via. Ecco, quindi questo è stato un po' il primo ragionamento. Poi ci siamo occupati del rapporto tra economia e finanza nell'epoca moderna e nell'epoca tardo-moderna. Poi, ieri, abbiamo un po' cercato di definire alcuni concetti, come il concetto di deterritorializzazione, che vuole dire, è un altro modo per dire globalizzazione, se volete, ecco, il processo che toglie il carattere di località, di territorialità dei prodotti dell'attività umana, e quindi con la parola deterritorializzazione intendiamo i processi di costante spostamento dei valori economici e dei valori finanziari che in un senso più ampio definiamo anche come globalizzazione. Poi sempre ieri abbiamo introdotto un argomento che adesso riprenderemo, sul quale ritorneremo nelle prossime ore, e cioè una storia culturale, antropologica, artistica anche, diciamo una storia della sensibilità e della cultura in relazione con l'economia ed in particolare in relazione con il denaro. Allora ieri, e qui io faccio un'introduzione, poi interrompiamo per una decina di minuti, ieri ho cercato di ragionare sull'origine della modernità, sul periodo in cui si formano le strutture economiche, urbane, ma anche culturali e vorrei dire sensibili, estetiche quasi, del capitalismo moderno. Ho accennato all'opera di colonizzazione del mondo che inizia nel corso del 400 con le grandi esplorazioni geografiche, ma poi mi sono concentrato soprattutto sulla rivoluzione protestante, citando Max Weber, l'etica protestante e lo spirito del capitalismo, ma riferendomi al mutamento nello spirito della cultura europea che si verifica a partire dal momento in cui, grazie alla rivoluzione della stampa, grazie alla disponibilità del testo scritto, della Bibbia, per tutti i cristiani, per tutti i cristiani che sanno leggere, che hanno soldi a sufficienza per comprarci una Bibbia, quindi diciamo per tutti i cristiani della borghesia, ecco la formazione di uno spirito nuovo, uno spirito individualista e uno spirito di responsabilità di fronte a Dio, che è ciò che caratterizza il movimento luterano, il movimento calvinista e in generale il protestantesimo della prima modernità. Poi però ho cercato di dire qualcosa anche sulla reazione romana e spagnola, cattolica, a questo mutamento, a questa trasformazione protestante. E ho tratteggiato rapidamente i caratteri della cultura controriformatrice che inizia con il Concilio di Trento, quando la Chiesa di Roma si riunisce per rispondere alla riforma protestante in un concilio durato 45 anni e dunque enorme per importanza nella storia della cristianità e nella storia del mondo. Nel corso del Concilio di Trento il Papa e i suoi amici religiosi e militari e politici giungono alla conclusione che i tedeschi sono persi. Lutero non viene neanche al concilio e dunque la rottura con il mondo tedesco è definitiva, il protestantesimo è cominciato. Ma allora cosa facciamo noi che siamo cattolici, cioè universali? Noi iniziamo l'opera di evangelizzazione del nuovo mondo, cioè andiamo da quei buoni selvaggi che stanno nel nuovo continente e gli portiamo la buona novella. Come gliela portiamo? Quelli manco sanno leggere, Non, a differenza dei borghesi tedeschi che si comprano la Bibbia e parlano con Dio nella loro cameretta, noi cattolici dovremmo utilizzare lo strumento dell'immagine. È l'immagine che prevale nella cultura cattolica, mentre la parola prevale nella cultura protestante. La cultura protestante, che può essere assimilata alla severità gotica, aniconica, se non addirittura iconoclasta, cioè iconoclasta, iconoclastia è il rifiuto delle immagini, la guerra contro le immagini. Questa è la cultura protestante. E invece la cultura cattolica, che deve parlare con il popolo, con un popolo illetterato, con un popolo che non parla nemmeno la nostra lingua, e allora dovremmo convincerli, sopraffarli, terrorizzarli o esaltarli con immagini sempre più ricche, sempre più impressionanti. Ecco nascere uno spirito, una cultura che si identifica con il processo di evangelizzazione cattolica e che è molto vicina a quella cultura artistica che nel 600 spagnolo e italiano, ma anche messicano, anche brasiliano, attenzione, definiamo barocco. Il barocco come spirito della moltiplicazione immaginaria, dell'infinita ricchezza delle immagini, della prevalenza del decorativo rispetto all'essenziale, con la prevalenza dell'immaginario rispetto al discorsivo, è in qualche modo, il barocco, dicevo, è in qualche modo la forma estetica, ma anche la forma culturale con cui si caratterizza il mondo della Controriforma, che si identifica con il mondo latino largamente. Il barocco è un fenomeno prevalentemente latino, meridionale, e non, naturalmente esiste anche un barocco settentrionale, oppure esistono forme di contaminazione tra il barocco e il gotico settentrionale, ma se ci riferiamo alla dimensione maggioritaria della cultura barocca, dobbiamo riconoscerlo come un fenomeno essenzialmente meridionale e latino, meridionale dell'Europa meridionale e dell'America meridionale. Ecco, da qui ripartiremo dalla opposizione estetica, storica, culturale tra mondo gotico e mondo barocco, e cercheremo di giungere a ripresentare la nostra questione, la questione della finanziarizzazione contemporanea. Allora, adesso interrompiamo un attimo e poi ripartiamo da qua. Cos'è il barocco? Cos'è il gotico protestante? In che senso queste due culture si collegano ad un processo storico ed economico che caratterizza la prima modernità? In che modo si relaziona l'Europa del Nord con l'Europa del Sud, l'Europa protestante con l'Europa barocca, diciamo, cattolica? Come questo fenomeno giunge alla piena modernità nel Novecento e come queste due forme culturali si ripresentano in forma inedita, nuova, nell'epoca contemporanea, nell'epoca che dopo cercherò di definire come epoca del semio capitale. Arrivederci fra un quarto d'ora.